Un sistema per evadere il fisco, incredibile ma vero, e cancellare ogni traccia della propria identità fiscale, grazie a incendi che poi si scoprono dolosi o a falsi incidenti. Un caso clamoroso, scoperto recentemente, lo conferma. Un 39enne titolare di aziende del settore Movimento Terra, che aveva dichiarato fallimento ma viaggiava con auto di lusso e aveva il garage pieno di auto di grossa cilindrata. Subito dopo il fallimento aveva prontamente distrutto i libri, i registri e le scritture contabili, cercando di impedire agli agenti la ricostruzione dei patrimoni. L'ammontare dell'evasione accertata è pari a 10,5 milioni di euro e sono stati recuperati anche 87 mila euro da un credito IVA indebitamente utilizzato da una ditta fornitrice della società fallita. Anna Marino, Radio 24, Sole 24 Ore.